Talvolta sono serenate che cercano i cuori innamorati. Non piangere, bambina, non piangere, mio bene. Trattieni nel cuore la tua lacrimuccia. Anche il sospiro del rustico trovatore si fonde al brusio del fiume. I campanili che si guardano lungo l'Isonzo, di Lucinico, di Sant'Andrea, di Mossa, di Merna, di Gradisca, di Corona, di Sagrato, di Romance, di Fogliano, di Turriaco, di Ruda, di Ronchi, si chiamano ogni mattina, si chiamano ogni sera con gli squilli dell'ape. Nelle pause di silenzio, alla voce del fiume, s'unisce il frenire dei grilli, motivo anche questo di canto popolare. Alla testata del ponte 9 agosto, teatro di cruentissime lotte, il vicino sottopassaggio della ferrovia intitolato alla medaglia d'oro Alfredo Baruzzi, che fatti da solo 200 prigionieri inalberò per primo il tricolore a Gorizia, s'addice un'invocazione alla Vergine, che fu indenne sotto la furia dei bombardamenti e ora protetta da un capitello votivo. Serve il lavoro sulle colline di Farra di fronte al San Michele. Sulle cime di questo tragico monte una iscrizione ammonisce il pellegrino. Qui, combattendo da prodi, italiani ed ungheresi si affratellarono nella morte. Siamo prossimi al mare. Da Punta Sdobba alla foce dell'Isonzo si scorgono le lampare dei pescatori. Le luci rompono di occhi vividi le tenebre. Un canto si accorda alla increspata superficie della laguna da un lato, del mare dall'altro. Si accorda al paesaggio calmo concluso dal profilo dell'Istria in lontananza, dal brillio di Trieste, dal cantiere di Monfalcone, dal castello di Duino, rifugio forse di Dante, asilo del Rilke. Solenni come i canti liturgici che riempiono le navate della Basilica Gradese, le voci dei sardellanti che gettano le sacca leve dove l'acqua del fiume si mescola a quella salsa dell'Adriatico. Diffusi nella notte, essi dicono la tavica malinconia di chi sa le invasioni, di chi usa il remo e la vela. Rendono la stupita immobilità della laguna e ad un tempo la trasparenza dell'aghe furlane che in essa finisce presso i canneti frementi di anatre in amore. Sì. sono i canti di una gente antica che si logora, vive e muore. Int antiche che si strussie vive e mur, mentre lisuns passant busine no tradini e salt il cuor. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Isonzo Canoro. Quarta trasmissione dedicata agli emigrati all'estero. Testo di Chino Ermacora. Hanno partecipato alla trasmissione le corali di Gorizia e di Cormons, dirette dal maestro Ugo Spessotti. La corale di Villa Vicentina, diretta dal maestro Secondo Del Bianco. La corale di Grado, diretta dal maestro Felice Olivotto. Canti popolari. Musiche originali di Augusto Cesare Seghizzi. Giovanni Pian. Franco Escher.